Lunga. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Signora, cercate Charlie Hebdo? Oui. L'avete trovato? No, no, qui non arriva. Vado a cercarlo altrove. Sono esauriti un po' ovunque. Sono già stato in molte edicole, ma è molto difficile da trovare, davvero. Oggi non abbiamo ricevuto nessuna coppia. Se ne riparla domani. No, oggi no, domani. Beh, io ho guardato eBay pochi istanti fa, la quotazione del numero speciale di Charlie Hebdo, speciale perché è sintomatico che esca un settimanale a una settimana dallo sterminio in ampia percentuale della sua redazione, è già arrivato a quotazione 450 euro. C'è qualcuno che lo vende per 450 euro, poi se qualcuno lo acquisterà non lo so. Comunque da una base di 50-60 euro si arriva a 150-250 a 450 euro. Questo è il primo dato da cui voglio partire oggi. Io tutta questa vicenda, diciamo, dello scontro tra civiltà, per sintetizzarla in uno slogan che è anche abbastanza parziale per descriverla, l'ho analizzata sin dagli albori assieme a una persona che si occupa di pubblicità, perché non è tanto per me in questo momento fondamentale, perché lo fa qualcun altro molto meglio di me, analizzare gli aspetti strategici, gli aspetti legati alla cronaca, gli equilibri, ma io voglio capire e decifrare quanto mai questo possa essere considerato come una grande campagna pubblicitaria. Per fare questo lo faccio con Bruno Ballardini, con esperto di marketing, di comunicazione strategica, ha scritto un libro su Papa Francesco, perché Papa è un genio del marketing, leader come Francesco, edizioni PM, sta lavorando alacremente per cercare di trarre degli elementi di riflessione proprio su questo tema qua. Io dico che gli ascoltori possono da subito chiamare all'800 24 00 24. Quanto individuate in tutto quello che leggete nei giornali, in tutto quello che sta accadendo, il possibile filo di una grande, importante, molto dettagliatamente pensata campagna pubblicitaria? Bruno Ballardini, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Conosci i precedenti che un foglio di giornale che costa un euro dopo poche ore arriva a quotazioni 250-450 euro? Sì, ma questo è prevedibile, nel senso che noi viviamo già da tempi non sospetti nella civiltà dello spettacolo, quello che è stato già prefigurato da Guy Debord, e quindi tutto fa spettacolo. Il problema è che noi moriremo di intrattenimento, perché di fronte a questo evento l'abbiamo buttata in cacciara, dalla sfilata dei capi di Stato fino alla compravendita, collezionismo, le quotazioni che si alzano di Charlie Hebdo ristampato mille volte. Però io ti continuo a portare sulla nostra provocazione. Se tutto questo, per ipotesi, non diciamo che sia così, fosse pensato come una grande campagna comunque in cui è più importante l'elemento di convincimento, come se fosse un grande advertising per un prodotto che non conosciamo bene, il prodotto potrebbe essere una conversione generale, una conquista materiale, non mi interessa in questo momento. La strategia sta funzionando. Sta funzionando oltretutto perché è veicolata attraverso internet, che è la grande arma finale. Quello che diceva Julian Assange sul fatto che internet è il nemico è tutto vero, si è avverato, ma non soltanto per l'uso che ne fanno gli stati, anche l'uso che si può fare dal basso di questa arma. Noi abbiamo il nemico, i barbari, che bussa alle nostre porte, parentesi, seriali. Fermiamoci un istante, 800 24 00 24, quanto vi sentite colpiti comunque emotivamente da qualcosa che assomiglia a una campagna pubblicitaria? Voi dite no, non è così assolutamente, cosa stai dicendo, qualcosa di atroce? Vi do un esempio. Аллах Всевышний облагодетельствовал службу безопасности халифата тем, что они выявили и задержали этих двух шпионов. La scena è abbastanza nota perché è stata ormai descritta da tutti i giornali, è passata in tutti i siti internet. Si vede un guerriero jihadista perfettamente nel ruolo hipster, perché ha una bella barba lunga, una divisa impeccabile, perfetta, gli cade a piombo, perfetta, non c'è una macchiolina di sabbia, di fango, sembra quasi un abito di scena, ma non è un abito di scena perché lui sta dando la sentenza di morte a due prigionieri, due kazaki, due spie, non si sa bene il contesto, che sono inginocchiati, anche loro con degli abiti da prigionieri perfetti, uguali, delle divise, cadono perfettamente, stirate, pulitissime, sono inginocchiati con i capelli perfetti, mani dietro la schiena, hanno un perfetto atteggiamento da prigioniero che ascolta la sentenza di morte. Tradiscono appena delle emozioni, appena i volti tirati, ma non implorano, non dicono nulla, stanno silenziosi, sono rassegnati, direte. Il protagonista, il punctum di questo spot pubblicitario, che poi si conclude realmente con un'esecuzione, è un bambino perfetto, vestito perfettamente, un bel maglioncino con la zip, attillato, nero, bello, cade molto bene, pantaloni mimetici, ma non dei pantaloni mimetici da soldato che fa la guerra, un bambino che avrà 10 anni, qualcosa del genere, pantaloni mimetici molto fighetti, come li portano anche i miei figli, la maggior parte dei ragazzi, perché fa parte comunque delle mode correnti. Ha i capelli lunghi, lisci, come un bambino degli spot pubblicitari, deve essere carino, bello, ha dei bei lineamenti, sembra scelto attraverso un casting. Tranquillo, sereno, in mano a un grosso pistolone, bel pistolone, ma non una pistola normale, una pistola bella, elaborata, con una sorta di ricerca ingegneristica fra le tante pistole potranno usare. Alla fine della sentenza di morte, il bambino alza la pistola, spara sulla nuca a uno dei due, spara sulla nuca al secondo, gli spara ancora una volta per finirgli, scavalca i cadaveri, alza la pistola e parte il messaggio appunto pubblicitario, la scritta. Nel frattempo che avviene questa esecuzione, non tutti l'hanno visto perché è stato censurato il video, c'è un momento di forte post-produzione, degli stacchi velocissimi, stacco sull'orologio del bambino, stacco sulla mano del bambino, ralentì del bambino che alza la mano e mostra l'orologio, stacco sui volti dei due prigionieri, insomma c'è una forte post-produzione. Bruno Ballardini, questo non è uno spot pubblicitario o no? Sì. Questo lo è in pieno, tra l'altro la casa di produzione si chiama Al Hayat ed è la casa di punta che sta proponendo dei prodotti che sono quasi da Festival di Cannes. Guarda che è girato benissimo, una fotografia sì. Perfetta. Ce ne sono di migliori, naturalmente io è da mesi che sto analizzando questo anche per cercare di scrivere qualcosa che parerà un po' le cazzate che si sentono da parte degli analisti improvvisati dell'ultima ora. Ora, questo spot ha un messaggio chiarissimo, e cioè siamo riusciti ad acchiappare due agenti segreti, per noi questo è un gioco da ragazzi, infatti fanno fare l'esecuzione a un ragazzino, questo è il vero messaggio. Il ragazzino si era già visto in un filmato precedente, sempre di Al Hayat, dove veniva addestrato insieme ad altri bambini. Anche lì vestito da perfetto guerrigliero, con i capelli, aveva cioè una specie di fazzoletto in testa, sorrideva, sì. Diceva le ammazzerò tanti, qualcosa del genere. Sì, esatto, no, ma nel finale c'è un intervistatore naturalmente messo lì che gli dice cosa vorresti diventare da grande, e lui gli risponde candidamente una frase probabilmente imparata a memoria da indottrinamento, e dice: io sarò quello che ti sgozzerà, miscredente. Beh, vedi che stanno costruendosi un testimonial, scusa, questa è una costruzione seriale di un testimonial. Ma in tutte le cazzate che si sentono dire nei talk show, perché poi ne riduciamo tutto a talk show ed è una cosa insopportabile, hanno perso di vista che cosa stanno facendo veramente, perché non vanno a vedere queste cose. C'è una produzione di videogame pazzesca per indottrinare i ragazzini, cioè voi non avete idea di che macchina mediatica ci sia dietro. Allora, prendi un attimo respiro perché me lo spieghi bene adesso, perché voglio coprire questa lacuna. Intanto sentiamo Carmen da Cuneo. 800240024, avete capito il senso della trasmissione? Vogliamo far capire come attraverso, oltre gli aspetti cruenti, gli aspetti sanguinosi, l'indubbio attacco militare, c'è un attacco molto più sottile, molto più legato alle logiche comunicative della contemporaneità, che conoscono benissimo, non sono dei rozzi guerriglieri che stanno nel deserto e sgozzano le persone perché sono arcaici, no, sono guerrieri molto specializzati anche nella guerra psicologica. Carmen. Buongiorno, sono Carmen. Sì. Allora, a parte il fatto che mi sono persa l'ultimo pezzo perché ho dovuto spegnere la radio, ma ho sentito da voi, a proposito di quel video ieri sera che parlavate del bambino, del ragazzino addestrato per, eccetera, e tra l'altro si insinuava il fatto che questo video fosse contraffatto. Cioè non... Onestamente, le dico la verità, cambia poco. Cambia poco. Perché per loro ammazzare due persone è come per me bermi adesso l'acqua a questa bottiglietta. Quindi se è funzionale al messaggio li ammazzano, se no boh, fanno prima a non ammazzarli, non lo so adesso. Poi mi confermerà o smentirà Ballardini. Lei cosa voleva dire? No, io volevo soltanto dire che la vostra signorina mi ha detto Ho pensato, no, ho detto, sbagliandomi un pochettino, sì, perché vuol dire, perché sono un insegnante di storia, vado al punto, ho detto semplicemente che ero stupefatta del fatto che Charlie Hebdo è stato conosciuto, cioè ha venduto quei 6 milioni di copie, eccetera, adesso venne, mi ha detto lei le quotazioni, io non lo sapevo. Fa parte proprio del messaggio, hanno talmente colpito l'opinione generale con un atto criminale ma così eclatante che logicamente poi Hebdo vende copie come non sarebbe mai sognato nella sì, sua vita. Ma non era quello che volevo dire. Sì, però la signora non può occuparmi tutto il tempo, si concentri prima un'altra volta. James da Reggio Emilia. Salve, ciao, buongiorno. Io volevo lasciamo troppo spazio all'insegnante di storia, cambiamo mestiere. James, buongiorno. Buongiorno, io volevo solo fare un appunto, sono rimasto estremamente colpito dalla quotazione che ha raggiunto Charlie Hebdo su eBay e mi facevo una proposta di questo tipo, ma perché la redazione di Charlie Hebdo non ripropone lo stesso numero fino a quando il prezzo non rientra nel prezzo normale? Vabbè, perché fanno un altro mestiere, perché loro preparando il numero successivo, non è che fanno gli speculatori, lo ristamperanno probabilmente, è una facezza, fra 3 giorni glieli tireranno dietro, ci incarteranno l'insalata, nel momento emotivo vale tanto, da domani ne rimettono altre ristampe e finisce lì. Bruno Ballardini, ritorniamo al punto però che stavi dicendo, la questione dei videogame, che è un aspetto meno trattato, perché poi diciamo che il target di questi videogame sono i loro ragazzi, sono i ragazzi ormai naturalizzati perché nati in Francia, nati in Germania, nati in Italia, che però devono cominciare a formarsi su degli elementi emotivi diversi rispetto a quelli di Lara Croft e o cose del genere. Allora, ci sono due livelli, quello dei ragazzini che vengono acchiappati con attirati con videogame eccetera, graduali. Tra l'altro io poi sto analizzando una gradualità che c'è anche in questo programma didattico, chiamiamolo così, che arriva fino a accompagnare per mano verso il jihad vero. E in uno di questi videogame che è stato modificato da dei programmatori bravissimi, che sarebbe Grand Theft Auto, uno dei più famosi, che è stato citato proprio nel primo attacco dopo Hebdo, quando i due fratelli giravano per la strada di Parigi, hanno ammazzato quel poliziotto, si muovevano come dei personaggi di quel videogame. Sì, esatto, poi la scritta d'apertura del videogame truccato, diciamo, modificato con tutte le scenografie, ridisegnato tutto, ambientato nel jihad, in pratica dice quello che voi farete in questo videogioco noi lo facciamo nella realtà sul campo di battaglia, quindi è già abituare le persone, i giovani aspiranti, a un gioco da adulti che un giorno forse potranno fare anche loro. Esattamente l'atteggiamento opposto rispetto a quello che ipocritamente si pone l'Occidente quando esce un videogioco violento, quello che tu hai citato, diciamo il protagonista va in auto, cammina per strada, può travolgere i pedoni, scendere, sparare ai poliziotti, anzi più ne ammazza più vince, questo è il bello, però tutti facciamo i moralisti dicendo diseduca i nostri ragazzi, e più i moralisti alzano i loro strali più vende il videogioco, questo è funzionato. Loro no, lo fanno strumentalmente subito all'opposto, hanno capito che il videogame è un forte strumento didattico e lo usano strumentalmente a quello che loro serve. Ci fermiamo soltanto un istante per il traffico, poi riprendiamo. Melog, cronache meridiane. Ma la satira è blasfemia, contro tutti i dogmi, contro tutte le certezze, contro tutti i feticci che non possono essere criticati né messi in discussione. Il potere in sé non vuole essere messo in discussione, tantomeno vuole essere ridicolizzato. Quanti paladini della libertà di satira italiani abbiamo sentito stracciarsi le vesti per l'indignazione, difendere la libertà di satira, gli stessi paladini che in Italia hanno sempre cercato di soffocarla. C'è a chi piace la satira solo quando è morta. Ma c'è un limite che la satira non deve, non può valicare? No, c'è quello che deve valicare. 800240024. Il punto riflessione che vi propongo questa mattina è abbastanza complesso. Proviamo se riesco a farvi capire. Se fosse vero, quello che sta sostenendo Bruno Ballardini, che io appoggio, sul quale sono molto curioso. In realtà quello che dice Varo, quello che dicono tutti i nostri comici, che in realtà è più che scarnificare un po' le palle a Berlusconi, non hanno mai fatto molto di più importante o più rischioso per loro, in realtà sarebbe assolutamente fuori bersaglio, perché se il disegno fosse così perfetto, così organizzato, così strutturato, così contemporaneamente articolato sulla nostra sensibilità attuale, gliene importa un piffero della satira, del profeta, delle vergini da potersi prendere una volta trapassati. In realtà c'è un disegno molto più intelligente e probabilmente molto più laico. O mi sbaglio, Bruno? Sì, assolutamente sì, e colpisce tutti i nostri punti sensibili uno dietro l'altro. Io adesso volevo ribadire che secondo me la manifestazione di Parigi è stato un autogol spaventoso, perché abbiamo mostrato la nostra debolezza. Cioè, dall'altra parte, io ho seguito tutte le notti i commenti su Twitter nei canali dell'ISIS, perché bisogna andare alle fonti, non come i nostri canali. Raccontami, cosa accadeva nei canali dell'ISIS mentre vedevano tutti i capi di Stato scesi in piazza, milioni di persone per tre sciagurati che hanno fatto una strage da soli, spendendo 20.000 euro, poco più. Una festa, nel senso che in sintesi colpiti e affondati, cioè significa semplicemente che loro hanno capito che siamo stati toccati profondamente. Tra l'altro io dico, aggiungo, nella nostra ipocrisia, perché oltretutto c'è gente che è andata lì a manifestare senza aver mai letto Charlie Hebdo in vita sua, cioè è ridicolo, però dall'altra parte c'era la festa. Cioè, vedo la Francia stessa, adesso è sotto processo di Edonné, che può piacere o non piacere, ma se vale la libertà di satira vale anche per lui. Esattamente. Cioè il comico che ha detto je suis Koulibaly, prendendo in giro anche esattamente le prese in giro, per lui no, però lui non vale l'essere arrestato. Io consiglio di leggere l'articolo di oggi di Mehdi Hassan, direttore dell'Huffington Post Inghilterra. E cosa dice? E dice esattamente, da musulmano sono stufo di tutti quegli ipocriti fondamentalisti della libertà di parola. Cioè, deve valere per tutti, per tutto. Avete mai visto fare, non so, della satira sull'Olocausto? Avete visto fare? Cioè, ci deve essere un rispetto minimo. E l'altro discorso che vorrei aggiungere è, siamo stanchi, io perlomeno non ne posso più della satira. Cioè, noi buttiamo tutto in caciara. Esiste un limite nel rispetto fra persone che pensano in modo diverso, che non va mai valicato. E non sto prendendo le difese dell'Islam. Leggetevi Neil Postman, divertirsi da morire. Noi siamo diventati dei cazzari. Stiamo buttando tutto in intrattenimento e divertimento, con le battutine che vanno da qui alle barzellette raccontate da Berlusconi in Parlamento fino alla satira di cui non ne possiamo più, non ne possiamo più di Vauro, non ne possiamo più di tutti questi cazzari. Sei animoso, spero che il libro che stai preparando esca presto, così avremo modo di capire di quello che si tratta. Io ti dico il mio punto di vista, per me ha diritto di esistenza anche il cazzaro, può farmi ridere e mai farò nulla perché il cazzaro non si esprima come tale. Però quello mi viene da far capire è che non credo che siano così ingenui da scatenare una guerra così importante semplicemente per una vignetta. Evidentemente la vignetta è il punto d'attacco per cominciare a far vedere e a misurare quelle che sono le loro forze, che sono le reazioni. Ma Daniele, è già iniziata la guerra, non è la vignetta, è la gente che si sveglia adesso, soltanto dopo il massacro di Parigi, ma la guerra esiste dal 2006. Qual è stato il momento scatenante in cui tu hai avuto sensazione, da quello che guardi, che è iniziata la guerra? Allora, basta andare in rete, basta spegnere il televisore e non seguire più le sciocchezze dei nostri giornalisti e scoprirete che c'è tutto un mondo in fermento nell'Islam, che parte dalle primavere arabe, passa per i fratelli musulmani, passa per tutto una voglia di rivincita verso l'Occidente, su cui qualcuno sta naturalmente giobbando, perché chiaramente c'è un potere che vuole questo. In realtà mandano avanti dei poveri deficienti, della carne da macello che non si rende nemmeno conto. Come è sempre stato in tutte le guerre, però le guerre si fanno così, si mandano a fanteria a creare gli eroi, a creare i simboli, ma lavorano dietro, poi lavora chi deve lavorare. Tutte le guerre, anche le guerre mondiali, sono svolte così. Poi fermo un attimo, sentiamo Daniele da Milano. Daniele, buongiorno Nicoletti, sì. Abbasso i cazzari, condivido pienamente. Io mi reputo cazzaro genetico, però no, lei non bene. È un cazzaro, mi creda, la conosco da tanto tempo. Vabbè. E io volevo semplicemente esprimere tanta amarezza e tristezza per questo mescolamento tra finzione realtà e realtà finzione. Ho visto l'ultimo filmato dove sembra apparentemente che la macchina della polizia francese scappi, faccia retromarcia di fronte ai due terroristi, e mi sembrava di vivere un videogioco che ho ritirato recentemente dal mio bambino. Sì, è quello che diceva, è una cosa che mette molto tristezza e amarezza. Volevo però fa parte della contemporaneità vivere in un mondo ambiguo in cui realtà e rappresentazione molte volte sono speculari, si guardano e non si capisce quale dimensione sia. Mi sembra di aver capito da quello che dice Bruno Ballardini, che sta approfondendo il problema, non lo dice così perché si è alzato la mattina, ma ci sta studiando da mesi, che in realtà conoscono perfettamente quelli che si pongono come dichiarati nemici dell'Occidente. In questa logica studiano i meccanismi, studiano i processi, non lavorano a caso. Marco da Cassino. Marco, buongiorno. Buongiorno ai ascoltatori. Io volevo porre questa questione, chiedo a lei e ai suoi ospiti di quantificare un po' questi fenomeni. Credo sia importante capire se questo fenomeno dell'islamismo, come tutti gli ismi in sé negativo, interessi qualche centinaio di persone che per caso riescono a compiere dei gesti sia militari o culturalmente rilevanti, o se parliamo di un movimento che fattivamente, concretamente coinvolge centinaia di persone del mondo che vogliono centinaia sono poche progetto. Oserei dire sono poche. Bruno Ballardini, so che non ti posso chiedere di dare i numeri, le cifre. Diciamo che attualmente i jihadisti in Siria e Iraq sono dai 50.000 a 70.000 persone, ma queste non... Poi vedi la percezione dell'ascoltatore, 50-100 persone pensava. No, ci sono qualcosa come 8.000 al mese che vanno dai paesi occidentali lì come verso la terra promessa, perché c'è questo sogno della terra promessa che sta attirando parecchia gente. Tra l'altro io volevo soltanto sottolineare che vanno a riempire con questa ideologia un vuoto di valori che noi abbiamo, cioè i giovani che impazziscono come quella milanese che parte per la Siria perché si è appena convertita, cioè all'epoca nostra noi eravamo di lotta continua, eravamo anarchici, eravamo fascisti, ma avevamo un ideale territoriale, politico, territorialmente definibile, ecco. In questo momento c'è un vuoto talmente pneumatico di valori che questi qui trovano addirittura soddisfazione e gratificazione in una ideologia lontana. È come se una setta religiosa facesse presa su larghe fasce della popolazione che assolutamente non ha gli strumenti culturali e nemmeno razionali per discriminare. Sì, è singolare perché le generazioni passate hanno avuto altre transumanze, i figli dei fiori, i luoghi della musica, i luoghi della mistica indiana, ne abbiamo viste tante. Qua vanno in posto e si spara, si ammazza, si muore, si sgozza. Un po' cambiata l'ottica, sono viaggi senza ritorno o con un ritorno molto diverso, non è andarsi a fare un po' di canne e a sentire qualche concerto come le loro nonne. Sei d'accordo? Sono assolutamente d'accordo. Una volta avevamo la fuga in India, adesso c'è. Ma tornavano un po' sballati, ma poi alla fine rientravano nei ranghi. Questi, quando tornano dalla Siria, tornano che devono fare delle operazioni e non credo che si possano sottrarre da questo tipo di operazioni. Di intelligence hanno preso in giro, hanno criticato duramente la campagna di dissuasione che ha fatto il Dipartimento per la Difesa americano con una ignoranza e una idiozia assoluta quando ha fatto su internet dei siti, del social. Ci torniamo Bruno, perché la sigla ci porta via, ma torneremo su questo argomento. A presto.